Allora, non so se riusciamo adesso a iniziare questo giro per le piazze italiane dandogli continuità, ma comunque per il momento siamo collegati con Bergamo, dove il corteo è partito e ha già, diciamo, così, colpito nel segno, secondo quelli che sono gli obiettivi della giornata. È con noi al telefono Carletto, ciao. Ciao e ciao a tutti gli ascoltatori. Com'è andata? Come sta andando allora? Allora, a Bergamo adesso la mobilitazione, diciamo, non sindacale si è riunita. Partendo a piccoli gruppi, da vari gruppi, si è bloccata un po' la città e si è riunita il grosso del corteo studentesco. Durante il percorso sono state sanzionate un po' di entità, tra le quali Italcementi, che è uno dei più grossi gruppi italiani, gruppi industriali italiani, che ha partecipazione in grandi banche, nel mondo della finanza ed è responsabile di speculazione, oltre che essere inquisito per affari con la mafia. Bene, poi mi dicevi anche che ci sono state, diciamo, sono state colpite delle banche? No, delle banche no, il grosso dell'azione è stato appunto legato ai Italcementi. La città è bloccata da uno sciopero abbastanza gatto selvaggio, ecco. Ho capito. Quali sono i numeri in piazza? 500 persone, che per Bergamo è un buon risultato, ecco. Va benissimo. Senti, ma a questo appuntamento stanno partecipando, diciamo, cioè il grosso dei collettivi che operano e sono attivi in città? Sì, principalmente la parte del corteo è studentesca, la componente è quella, anche perché questa crisi va a colpire il comparto dell'istruzione in maniera molto, molto determinante. Quindi la composizione grossa della piazza è quella. Perfetto, va bene Carletto, allora ci sentiamo più tardi, soprattutto se ci sono particolari momenti, insomma, che vale la pena raccontare qui in diretta, d'accordo? Va bene, A ok, ciao dopo. a tutti gli ascoltatori. Ciao, ciao. Ciao, dopo.